Prima di tutto devo fare una precisazione. I curatori ufficiali sono Riccardo Michelucci ed Enrico Terrinoni, che hanno tradotto tutti gli scritti dal carcere di Bobby Sands che abbiamo pubblicato con pagina 1. Riccardo Michelucci è autore anche delle introduzioni e ha tradotto le pagine di prosa, e invece Enrico Terrinoni ha tradotto le poesie e ha scritto una postfazione. Questo libro sono più di 200 pagine di poesie e prose, così le abbiamo chiamate, che sono tutta l'intera produzione letteraria di Bobby Sands durante la detenzione dal 1976, anno dell'arresto, poi non è più uscito fino a quando ha potuto scrivere durante lo sciopero della fame, di cui poi è morto il 5 maggio 1981 e che appunto, tra virgolette, celebriamo con questa presentazione il 5 maggio, visto che sono 40 anni. Sono degli scritti che sono stati tracciati su cartine di sigarette, pezzettini di carta igienica poi nascosti all'interno del corpo, fatti uscire in maniera molto rocambolesca. Poi ai tempi, quando Bobby Sands era in carcere a Belfast, poi venivano pubblicati su Republican News, che era un organo di stampa legato all'IRA e al repubblicanismo, alla lotta per la Repubblica Socialista Irlandese, come teneva sempre a precisare Bobby Sands negli scritti. Ed è una raccolta, a mio parere, davvero molto interessante, se non straordinaria, nel senso che, oltre al fatto che Michelucci e Terrinoni hanno fatto davvero un ottimo lavoro di traduzione e di cura, anche spiegandoci il contesto in cui scriveva, offrendoci dei ragionamenti su Bobby Sands poeta, tante altre cose che hanno inserito nei loro scritti. E la cosa incredibile di questo libro è che dopo 40 anni, a mio parere, ma vedo che chi lo legge poi è d'accordo, questi scritti parlano ancora, cioè sono caratterizzati da un'universalità e un'attualità, e quindi sono letteratura sostanzialmente, cioè ci parlano, ma questi scritti, a mio parere, parleranno per sempre, nel senso che, oltre a essere una forte testimonianza storica delle condizioni dei detenuti irlandesi in carcere a quell'epoca, sono davvero letteratura, e alta letteratura, perché ci sono dei momenti di poesia, di liricità anche nelle parti di prosa, che sono davvero importanti. Come era nato il progetto? Nel 2018, quando io e Riccardo Michelucci ci siamo incontrati per un'altra iniziativa su Bobby Sands, abbiamo parlato del fatto che questi scritti non fossero mai usciti in Italia, che ci sembrava una cosa incredibile, perché in Italia tempo fa era uscito soltanto il diario Un giorno della mia vita, che è stato molto letto dal pubblico italiano. E quindi ci siamo detti, proviamo con la casa editrice Pagina 1 a chiedere i diritti alla fondazione Bobby Sands, che sta a Belfast e che appunto detiene tutti i diritti degli scritti di Bobby. È stato anche buffo, perché inizialmente, essendo una casa editrice con un catalogo stupendo ma piccola, temevamo che insomma non ci avrebbero dato retta. In realtà c'è stata una collaborazione straordinaria da parte di Fondazione Bobby Sands e poi di Mercer Press, che è la casa editrice poi che ha pubblicato in Irlanda gli scritti di Bobby Sands, e quindi abbiamo cominciato questo lavoro, che poi ha avuto qualche problemino come tutte le cose a causa del Covid, nel senso che doveva uscire il 5 maggio del 2020, poi è saltata la cosa. Avremmo dovuto, tra l'altro, avere la collaborazione di Giulio Giorello, che sapete è appassionato di questione irlandese, purtroppo è mancato, infatti i due curatori hanno tenuto a dedicare il loro lavoro a Giorello, e poi insomma con varie fatiche siamo riusciti finalmente a stamparlo, e è cominciato un viaggio che definirei davvero abbastanza grande, perché a parte ha avuto moltissime recensioni sulla stampa e sta andando bene, nonostante non possiamo presentarlo dal vivo, almeno fino ad ora. Insomma, Bobby Sands piace e interessa ancora, e secondo me chi poi se lo legge scopre ancora un altro Bobby Sands rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino adesso, almeno per chi, come me, l'inglese lo legge un po' a fatica e quindi non poteva apprezzare i testi originali. Per chi ci ascolta, contestualizziamo anche un po' il periodo storico e com'era la situazione allora nel conflitto tra Inghilterra e detenuti politici irlandesi. Bobby Sands fa parte di quella generazione dei giovani degli anni 70 che hanno aderito all'IRA, all'esercito repubblicano irlandese, e che però in molti sostanzialmente non hanno nemmeno mai compiuto poi azioni armate vere, ma facevano attività più che altro all'interno dei comitati per i diritti civili e comitati di inquilini. Ricordiamo che in Irlanda del Nord a quei tempi chi era della comunità cattolica, quindi non di quella protestante che era quella filo-britannica, ma che voleva la libertà dell'Irlanda Unita, non aveva accesso ad esempio alle case popolari, al lavoro, al voto, cioè i diritti civili, se ricordiamo, infatti c'era stata una grossa mobilitazione. Poi con il Bloody Sunday, con tutta la repressione che ha seguito, c'è stata una crescita invece di adesione da parte di tantissimi giovani all'IRA, e Bobby Sands era uno di questi. Dopodiché il regime britannico ha introdotto l'internamento senza processo in quegli anni, diciamo lì prima metà degli anni 70, e lì si prendevano la gente, se la portavano in carcere, lasciavano marcire senza fare un processo, e le condizioni di detenzione erano davvero drammatiche, nel senso che i detenuti, Bobby Sands e i suoi compagni raccontano, innanzitutto dopo una prima fase è decaduto il riconoscimento dello status di prigioniero politico, quindi erano considerati prigionieri comuni, trattati molto molto male, botte da orbi da mattina a sera, torture continue, e infatti Bobby Sands è stato quello che ha guidato le proteste carcerarie più importanti. Prima la Dirty Protest, la protesta dello sporco, perché questi prigionieri quando andavano in bagno a lavarsi venivano torturati, picchiati ripetutamente, e quindi iniziarono a non andare più nei bagni, non per il piacere di non lavarsi ma per evitare queste torture, e quindi stavano all'interno delle celle spalmando, come sappiamo, gli escrementi sui muri per non dover convivere con mucchi di rifiuti umani nelle piccole celle. E poi venne invece anche la protesta delle coperte, la blanket protest, per cui rinunciarono alle uniformi carcerarie proprio perché volevano essere riconosciuti detenuti politici, quindi poter aver diritto a vestire degli abiti diversi, e rimasero solo con queste coperte. Il freddo era atroce ad un certo punto, poi addirittura nelle minuscole celle vennero tappate anche le finestre con le sbarre e non potevano più guardare nemmeno fuori. Questa era una grande tragedia per Bobby Sands, che spesso nei suoi scritti parla della natura e della vitalità della natura, aveva una grande fascinazione lui per la natura, è sempre molto presente, e quindi dice: non possiamo più nemmeno vedere l'essenza della vita, cioè osservare la natura fuori dalla finestra, gli uccelli sostanzialmente, poco più, qualche fiocco di neve ogni tanto, perché altrimenti si vedeva solo filo spinato. E la stessa condizione la vivevano anche le prigioniere donne, ricordiamo che ci sono stati degli scioperi importanti della fame, dello sporco, delle coperte anche nelle carceri femminili, e lo sciopero della fame poi è stato il momento ultimo e più alto di queste proteste, avviato da Bobby Sands e poi condotto a staffetta, no? Cominciava un prigioniero, faceva uno sciopero di 8 settimane, subentrava l'altro, e così a scaglioni sono morti 10 uomini nel 1981, Bobby Sands è stato il primo, e prima di morire era stato eletto parlamentare, già da detenuto, già in sciopero della fame, creando un movimento di opinione importantissimo tra le persone che vivevano in Irlanda del Nord, e quindi di appoggio forte la protesta all'interno delle carceri. Del libro ne avete fatto anche una serie di letture online. Sì, proprio per cercare di recuperare, visto che non era possibile fare presentazioni con i curatori dal vivo, abbiamo scelto 10 brani, nello specifico, e creato alcuni podcast che abbiamo mandato sulle principali piattaforme di podcast, tutte le settimane una lettura, ogni mercoledì, ed è stato un modo per avvicinarci a questo anniversario del 5 maggio, che cade infatti di mercoledì, così offrendo degli assaggi di questi brani, sia poesie che prose, di quelli che riteniamo i più significativi, quelli che colpiscono. Scegliendo però nella produzione di Bobby Sands, la cosa interessante è che c'è sicuramente una potenza politica negli scritti fortissima, la presenza della questione della lotta irlandese, delle condizioni carcerarie assolutamente preponderante, però c'è davvero la capacità in lui, che era uno scrittore pur avendo fatto la terza media e avendo cercato di fare il carrozziere, perché anche lì veniva menato, poi succedeva un po' di tutto, e in questi scritti però ci sono davvero tante parti in cui si parla anche d'altro, in cui si fa proprio letteratura, e quindi la natura, le relazioni umane, gli affetti, la passione per lo sport, per la letteratura, per l'ornitologia, appunto lui osservava gli uccelli e prima di entrare in carcere era stato un po' ornitologo, e quindi abbiamo scelto dei passaggi che ci sembravano i più significativi per poter dare una visione complessiva di questo lavoro. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web? Il libro è Scritti dal carcere, poesie e prose di Bobby Sands, edizioni pagina 1, sul sito ed edizionipagina1.it si trovano tutte le informazioni anche per l'acquisto online. Ovviamente il libro si trova anche nelle librerie, e mercoledì 5 maggio alle 18.30 sulla pagina Facebook di Pagina 1, la casa editrice, faremo sostanzialmente la prima vera presentazione del libro con i curatori, quindi Michelucci Terrinoni, con Vittorio Giacopini di Radio 3 e anche con la musica dal vivo, da remoto, degli Air Pillow, che sono un gruppo di Roma. Scritti dal carcere, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Sara Agostinelli. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, grazie mille Federico, ciao! Con Federico Carra, uno dei curatori del progetto Sorrisi a Manet. Federico, ben trovato. Buonasera, buongiorno, ciao. Ci presenti quest'idea? Sì, io faccio parte di un'associazione, si chiama Associazione Ponte Massimo, che lavora da 30 anni nelle carceri del Lazio principalmente, ma non solo. E abbiamo fatto insieme a due partner, Fondazione Terza Città di Rifugio e Cooperativa Eco, un progetto di accompagnamento e inclusione sociale per ex detenuti. In questo progetto, oltre alle attività appunto più di accompagnamento psicologico e sostegno legale e lavorativo in senso burocratico, diciamo, abbiamo inserito un percorso esperienziale all'interno dei mestieri dell'arte. L'associazione si occupa da anni di teatro e musica fondamentalmente in carcere, e volevamo con questo progetto cercare di dare delle doti un po' più tecniche e spendibili agli ex detenuti per entrare in un mondo in cui molto spesso non hanno accesso. Quindi abbiamo fatto dei corsi di ritmo, armonia, movimento, voce, narrazione, e poi abbiamo fatto dei corsi specifici, diciamo specializzati, di audio, di video e di grafica. All'interno di questo progetto i detenuti hanno scritto dei testi e hanno musicato anche una canzone. Da loro è uscita appunto l'idea di poterla produrre e di potersi fare un videoclip appunto con le esperienze che hanno fatto sia a livello di produzione musicale, di cioè stanno facendo, lavorando, vedendo studi di registrazione, studiando fonia, sia a livello più strettamente cinematografico di videoclip, anche se verrà fatto comunque uno stile molto cinematografico il videoclip. Siccome questo è un progetto extra, noi stiamo anche cercando di fare una raccolta fondi per sostenere le spese appunto extra che comporterà questo lavoro, che è già iniziato, è in corso e speriamo di finire entro un mese o massimo due. Quante persone coinvolge? Il progetto coinvolge 7 ex detenuti e una marea di formatori. In realtà siamo più formatori che detenuti, perché abbiamo voluto metterli anche in contatto con persone diverse che lavorano in tutti questi ambiti. Da un regista, io che faccio anche montaggio video, riprese, grafica, un altro grafico, dei conici, produttori musicali. Diciamo che stanno facendo molta esperienza e sono molto entusiasti, questo è molto interessante. Sono 6 ragazzi e una ragazza, diciamo ragazza, ma in realtà sono di un'età dei 25 ai 55 anni, se non sbaglio. Non avevano mai avuto a che fare con questo settore, adesso iniziano a lavorare, infatti in questo progetto faranno anche loro proprio la produzione musicale, le riprese e il montaggio. Ci parli anche un po' del contesto nel quale lavorate? La situazione è molto interessante, perché comunque noi lavoriamo da molti anni con detenuti ed ex detenuti. Loro sono ex detenuti quasi tutti ormai, nel senso che c'è rimasto qualcuno ai domiciliari, ma in realtà sono tutti in via di uscita, se non usciti, diciamo liberi. Vengono da esperienze legate molto alla droga e alla piccola criminalità, e hanno fatto molti, molti anni nei carceri, perché poi con reati complementari non hanno risparmiato le pene, hanno fatto lavori molto generici fino adesso, adesso hanno la possibilità, faranno anche dei tirocini con delle cooperative che lavorano con ex detenuti, ma anche in ambito più di comunicazione, marketing, quindi faranno grafici, video per i social e cose del genere, e speriamo che possano avere uno sbocco professionale. Com'è nel complesso la situazione per chi esce dal carcere rispetto al mondo lavorativo? Molto spesso abbastanza tragica, nel senso che si ritende, infatti questo è anche uno dei motivi per cui l'associazione decide di lavorare quello dentro, che si tende a rientrare nei Sicilia, a replicare la vita passata, è molto spesso anche a rientrare in carcere. Il sostegno è molto poco che viene dato all'esterno, le difficoltà sono anche nell'uscita burocratica tra magistrati che stanno combattendo giorno per giorno per avere le loro piccole libertà, perché poi molto spesso non è una cosa che puoi immaginare se libero esci, molto spesso ci sono appunto questi periodi in cui sei in domiciliare, poi comunque vieni controllato e quindi è comunque sempre una situazione molto pesante, anche perché se uno vuole cambiare ambiente molto spesso si trova di fronte comunque a quei muri, perché non c'è una grande propensione a reintegrarli nella società. Avevamo l'intenzione di fargli fare per esempio tirocini in ambito sempre teatrale, di light club e cose del genere, avevamo preso accordi anche con associazioni o club privati che non erano legati a questo mondo. Purtroppo con il Covid sono saltate molte di queste cose, quindi per adesso il tirocinio lo faranno sempre in cooperativa, comunque di essere inutile, noi avremmo preferito anche evitare, cercare di conoscere nuovi ambienti, però con un po' più di conoscenze sia tecniche che personali speriamo che riescano a integrarsi più facilmente a questi nuovi mondi. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Per informarsi e donare, il progetto si chiama Sorrisi a Manetta, che è il nome del gruppo scelto dai detenuti stessi. Il link su internet è ilpontemagico.it/sorrisi. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori del progetto, Federico Carra. Un in bocca al lupo, grazie, mille, grazie a voi. A presto, grazie. Con Daniela Cotimbo, curatrice della mostra collettiva Rehumanism, Redefine the Boundaries, al Maxi a Roma dal 5 al 30 maggio 2021. Bentrovata! Ciao, bentrovati! Ci presenti questo progetto? Sì, Rehumanism è un Art Prize dedicato al rapporto tra arte contemporanea e intelligenza artificiale che è giunto alla sua seconda edizione. Come nasce questo progetto? Il progetto nasce da una collaborazione con un'azienda che si occupa di consulenza e innovazione strategica, Alan Advantage, e vuole in qualche modo alimentare la riflessione sul futuro di queste tecnologie che sappiamo essere molto promettenti ma anche molto pericolose dal punto di vista sociale e politico. Quanti sono gli artisti coinvolti? Attualmente al Maxi potremo vedere 10 dei vincitori, che in realtà sono 11 perché l'ultimo vincitore lo vedremo a Roma Europa Festival a settembre 2021. Vincitori, quindi immagino ci sia stato un concorso in precedenza. Sì, la call era pubblica e aperta a tutti gli artisti di tutte le età e nazionalità che sono stati poi selezionati da una giuria di critici d'arte ed esperti di nuove tecnologie che poi hanno decretato gli 11 vincitori. Multidisciplinare come esposizione? Assolutamente, perché l'approccio necessario per ragionare su questi temi comporta necessariamente che gli artisti imparino anche conoscenze tecnologiche e scientifiche. Ma questo ce lo auguriamo un po' per il futuro di tutte le professioni. Con quali criteri è stata allestita la mostra? La mostra vuole essere un percorso dove lo spettatore si troverà a vedere delle opere che non per forza mostrano la tecnologia che c'è dietro. Si riflette un po' sul concetto di interfaccia, quindi sulla capacità della tecnologia di manifestarsi anche in modi che non ci aspettiamo. E poi lo spazio sarà abbastanza libero, quindi non saranno presentati in ordine di classifica, ecco. Saranno presenti anche gli artisti e le artiste? Ci auguriamo una partecipazione degli italiani. Chiaramente con la pandemia non possiamo garantire quella degli artisti internazionali, ma ci stiamo lavorando. Mi dicevi che non è una prima edizione. Il contest è giunto alla seconda edizione, la prima si è tenuta nel 2019 e ha premiato 10 artisti che sono stati esposti ad Albumarte a Roma, è una galleria d'arte privata, e quest'anno invece siamo esposti al Maxi, quindi l'iniziativa ha preso una dimensione museale. I criteri di accesso come saranno con le norme anti-Covid? Grazie della domanda. Durante la settimana l'ingresso è libero ma chiaramente contingentato. Lo spazio può ospitare fino a 30 persone contemporaneamente perché è abbastanza grande. Quindi ci sarà un avvicendamento dalle 11 alle 19. Mentre durante il weekend, come da nuovo decreto legge, sarà necessario prenotare entro il venerdì e lo si potrà fare sul nostro sito. A questo proposito ci lasci tutti i riferimenti web? www.re-humanism.com e da lì penso li potrete trovare tutti gli altri, anche i nostri social, siamo soprattutto su Instagram e su Facebook. Rehumanism, Redefine the Boundaries, a Roma, al Maxxi, dal 5 al 30 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Daniela Cotimbo. Un in bocca al lupo e a sentirci presto. A presto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.